and your keys. Your engine is on. Ventuno 07, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, anche per oggi mercoledì 7 marzo del 2018, inizia un ulteriore spazio ormai esistente dal 1992, ossia prove tecniche di trasmissione. Spazio che andrà avanti fino alle 22.30, allorché ci sarà 25 o'clock, che andrà avanti fino alla mezzanotte circa. Contatto telefonico 0649 1750, sito internet www.ondarossa.info, anche per ascoltarci via streaming, per sentire questa musica e per leggere le notizie contenute nel sito stesso. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, e questa trasmissione ha anche una pagina Facebook che è prove tecniche di trasmissione /disorder. Qui, oltre che sul sito stesso della radio, domani andrà il podcast e la playlist di questa trasmissione. Da quasi un mese sta andando avanti la nostra campagna di crowdfunding riguardante l'acquisto di un nuovo trasmettitore. Il nostro ha circa 20 anni ed è veramente allo stremo, e quindi miriamo a comprarne uno nuovo, un crowdfunding che va più che ottimamente. Siamo a circa 17.000 euro, quindi ovviamente siamo molto contenti della risposta positiva dei nostri numerosi compagni ed ascoltatori. Cominciamo con il salutare Alessandra qui da Roma, come da Roma Like Awake, dall'Argentina Maya, da Roma ancora Giulia, da Milano Massimo Ordiz Mascheroni, del quale sentiremo qualcosa più avanti, Luciano FM Genovese, altro musicista qui di Roma, di area naturalmente IDM elettronica, e Gustavo, sempre da Roma, da Ottavia. Per chiudere Riccardo da Taranto. Salutiamo anche Raffaele Pezzella da Napoli, al momento però non all'ascolto per motivi di lavoro. E da lui iniziamo, tramite la sua compilation che fa il punto della scena sperimentale balcanica, dal nome Nice Place Sounds, The Balkan Perspective. Un compendio molto lungo di due CD appunto di questa scena balcanica, dalla Slovenia, Bulgaria, Romania eccetera eccetera, una cosa alquanto intrigante. D'altronde Pezzella ha fatto anche cose più, tra virgolette, estreme, andandosi per esempio a impicciare della scena iraniana, una scena stupenda e insospettabilmente avanti. Stasera cominciamo con l'ascoltarci un artista dal nome D.E., del quale al momento non ho notizie. La cosa sicura è che questa traccia si chiama Cognition. anche per questa sera. Abbiamo iniziato la nostra carrellata nei Balcani attraverso Anesple Sounds, The Balkans Perspective, questa ottima compilation ideata da Raffaele Pezzella, musicista ormai qui di casa a prove tecniche di trasmissione, musicista anche attraverso il suo progetto Sonologist. Di nuovo salutiamo Alessandra, il buon Stefano. Vorrei citare un paio di concerti interessanti che ci saranno qui a Roma. Venerdì prossimo ci sarà Dive, Dirk Evans, che tutti conosceranno, almeno gli ascoltatori qui di prove tecniche di trasmissione. Dive che si è espresso in passato anche come Absolute Body Control, come Clinic, come Block 57. Di spalla ci sarà Malato e la Gothic Band Date at Midnight qui di Roma. A maggio verranno anche i Goflash qui a Roma, i Goflash, altro pezzo di storia della scena noise. Chiaramente i posti ve li potete procurare attraverso i social oppure chiamando qui lo 06 49 1750 per ulteriori informazioni. Dai Balcani siamo arrivati qui a Roma, lui è Francesco Zedde, astro emergente della scena sperimentale italiana. Lui dovrebbe essere marchigiano ma trapiantato a Bologna, si chiama Tacet. E questo è il suo ultimo lavoro, Perpetual, molto sospeso tra i corrieri cosmici della Germania degli anni 70 e ovviamente suggestioni più odierne. Questa è un lungo brano dal nome proprio Perpetual, e dallo stesso nome all'opera stessa. Ci andiamo ad ascoltare la seconda parte, la prima l'abbiamo apprezzata mercoledì scorso. Era dunque Tacit, Tacit, Tacit. Uno dei numerosi progetti del sottobosco italiano, in questa circostanza di chiara ispirazione, come si suol dire, kraut rock, e quindi che fa leva sulle memorie che vengono dall'esperienza tedesca degli anni 70, i Tangerine Dream, i Cannes, i Faust, insomma tutta quella scuola di pensiero che tanto ha lasciato in eredità alle generazioni successive. E questo album si chiamava Perpetual. Intanto, mentre io parlavo, si è staccato perfettamente il microfono, l'abbiamo ripreso al volo e quindi in questo momento siamo in una posizione scomodissima. Vedremo un po' di sistemare il tutto per il meglio. Dunque, i Tacit, Tacit, Tacit di Francesco Zedde, che come ci rende edotti Massimo Mascheroni ha suonato anche come The Real Blast. E lo abbiamo pubblicizzato la scorsa settimana nel caso di Margini Sonori, uno dei numerosissimi progetti del buon Francesco. Un altro è Tonto, e lì si esprime in una dimensione più elettropunk. Queste note appartengono invece ai Coil di John Balance, anche lui non ha bisogno di presentazioni, un pianto John Balance è scomparso ormai nel 2004. Qui si esibiva in combutta con Black Sun Productions di Massimo Fritz, un progetto invece italiano che si è molto ispirato all'avventura dei Coil. Questo è The Plastic Spider Thing, una sorta di colonna sonora per un'installazione di un'opera teatrale che andò in scena nel 2002. Ebbene, la Rasblade di Stefano Rossello ha stampato questo disco dopo molti anni. E noi ci stiamo già ascoltando il settimo e ottavo movimento di questo The Plastic Spider Thing. Salutiamo anche Nicola Locci dalla Sardegna, Stigmate come sua espressione musicale, e chiaramente anche il Fulvio Biondo, altra vecchia conoscenza, alias Solar Lodge qui da Roma. Yeah. Un fantastico viaggio anche interiore, se vogliamo, operato e perpetrato da Black Sun Productions insieme all'indimenticabile John Balance dei Coil in questa pista teatrale del 2002, che vedeva protagonisti sul palco anche questi splendidi artisti. E la Rust Blade di Stefano Rossello, un musicista che anche qui abbiamo apprezzato come bandiere in passato, ha avuto il buon gusto di ristampare questo disco del 2002, ristamparlo nel 2017 attraverso la sua etichetta, facendocelo riscoprire in tutto il suo splendore, cosa che vedo condivisa anche con i nostri amici qui all'ascolto, Massimo, Fio, Stefania da Berlino. Nicola stesso. Nicola, Stefano, Raffaele, li voglio anche ringraziare per aver aderito al crowdfunding, questa campagna che stiamo operando per comprarci un nuovo trasmettitore e che sta decisamente a buon punto e mancano circa 3 mesi. Dunque, The Plastic Spider Thing, che consiglio assolutamente di reperire. Noi andiamo avanti e viriamo verso cose più scansionate, appartenenti a Matter, un progetto che attualmente è detenuto da Fabrizio Matrone, che in passato ha visto anche la collaborazione di Fabio FK Drone spesso. Ci ascolta. Risalutiamo Lucky Wake, che da spiritoso qual è, tutti i suoni strani che emettono le mie trasmissioni in realtà sono quelli del trasmettitore che scricchiola, emana rantoli di vita, e quindi presumibilmente con il nuovo trasmettitore la mia trasmissione peggiorerà alquanto e sarà molto più ascoltabile, chissà. Non vi illudete. Torniamo a Matter. Dunque, questo era il quarto lavoro del 2013, si chiamava Bio Ecstasy, un progetto che si pone un po' a metà tra sonar e pansonic, quindi chi gli amanti di questo suono troveranno pan per i loro denti. We'll be right back. Ancora Matter di Fabrizio Matrone. Quindi qui era rimasto da solo il Fabrizio Matrone, come abbiamo detto Fabio FK Drone era già andato via. Li ricordiamo, suonarono qui a Roma molti anni fa e vennero anche qui in questi spazi di Prove Tech, anzi di Disorder. Disorder allora avveniva di venerdì e gli facemmo una gustosissima intervista parecchi anni fa. Ancora Beer Ecstasy. Poi Matter con questo Beer Ecstasy, 21:56, onda rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Ringraziamo ancora di nuovo Luciano FM Genovese che ci ha fatto ricordare anche che lui stesso filmò il concerto, una parte del concerto di Matter quando erano in due. Allora si faceva una rassegna in vari posti dal nome Staccanovismo, dove vennero ospiti artisti della scena elettronica, oltre a loro, se non erro, Mono Nowhere, forse anche Vielorib. E qui stiamo parlando appunto del vecchio Colatino Underground, del vecchio Closer non più esistente. Fabrizio Matrone è da Bologna, credo ancora. Insomma, un disco interessante che ce lo fa, che ci fa anche ricordare e ripassare quei suoni tanto cari ai Pansonic, ai Sonar di Dirk Evans. Peraltro in quell'occasione qui c'è Stefania, tira fuori un altro scheletro dall'armadio, fece una mostra fotografica proprio in, durante, credo proprio il concerto dei Matter, proprio in quel posto nominato su innanzi. Questo Bioexist si esce per un'etichetta ucraina dal nome Kvitnu, parecchio interessante. Dunque, Fabrizio Matrone viene da Bologna e da Bologna andiamo, e lo facciamo con l'ultimo lavoro di Bologna Violenta, una degli act più interessanti degli ultimi anni, tra Noise, Spiccore, Industrial, insomma un bel concentrato di energia sonora, anche se il buon Nicola Manzan non disdegna qua e là qualche frammento addirittura di musica classica, qualcosa del genere, già che lui suona anche il violino. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo Discordia, un disco uscito circa 2 anni fa. I dischi di Bologna Violenta si vanno a caratterizzare fondamentalmente anche per l'estrema brevità delle tracce, veramente al fulmicotone, e quindi questa sera ce ne ascolteremo ben 5, ossia Sigle di Telefilm, Il Canale dei Sadici, Incredibile Lite al Supermercato, Un mio amico odia il prog e Leviatano. Queste le tracce da Discordia per Bologna Violenta.